dei supportini in gomma bassa, ho smontato il trasformatore, gli ho messo dentro gli agganci per avvitare il trasformatore, gli ho messo dei gommini in gomma, non l'ha più fatto. Praticamente ho isolato il trasformatore dalla piastra in ferro, l'ho isolata, gli ho messo dei gommini prima di avvitare il trasformatore e non l'ha più fatto. E a me un Galaxy me lo faceva e l'ho risolto col trasformatore esterno. No, il trasformatore è quello suo praticamente, no, io ho sollevato il trasformatore interno e dove aggancia il trasformatore, che aggancia con cioè una piastra, una contropiastra e poi il trasformatore, e tra dentro ci sono i bulloncini da avvitare. Io ho sollevato il trasformatore, gli ho messo quattro gommini, capito? Quattro gommini di quelli piccolini, rotondi, forati, e non l'ha più fatto. L'ho isolato praticamente dal ferro e ferromi. Dipende sempre per quale motivo fa ronzio, se è per vibrazione, se è perché è contatto col ferro, dipende sempre perché lo fa, ma probabilmente, molto molto probabilmente lo fanno anche quando si consumano quelle lamelle che ci sono. E praticamente esiste questo spray che si mette tra uno e l'altro e non fa più fare ronzio, capito? Ma non so di che lamelle stai parlando, io ho provato a stringere il trasformatore e lo facevo ancora di più. Allora è qua il problema. Ho detto, l'ho sollevato, gli ho messo quattro gommini in gomma, ho ristretto i bulloncini da quattro, mi pare che siano, chiave da otto, e non l'ha più fatto, capito? Non l'ha più fatto, infatti l'avevo venduto, non mi ha mai detto niente. Una volta ci siamo sentiti, infatti l'avevo chiesto, l'avevo detto a quello di Ozieri, ho detto come andava, mi ha detto benissimo, non c'è nessun problema, è che sono io che non entro per problemi, gli avevano rotto il cavo a quello di Ozieri, capito? Forse perché faceva TVI, non lo so, vabbè, ognuno c'ha i problemi suoi con le radio. Vabbè, sei rientrato. Sì, mi ero notato un attimino. No, vabbè, il trasformatore di poco tempo vanno sempre strette le lamelle, poi un pochettino perdono i condensatori di coso, di capacità, per cui qualche ronzio fisiologico, dai, ma sono cose risolvibili, tanto sono abbastanza semplici. Claudio aveva messo l'isolatore, isolarlo completamente dal coso, dal metallo, molte volte può essere utile. A me mi aveva rotto le scatole tanti anni fa su un apparecchio trasmittente, non su queste bande, ed era la ventola. Alla fine ho dovuto isolarla, allontanarla completamente, isolarla, perché anche le vite, anche se ci metto il gommino sotto, non è isolato il metallo, la vite, e riesce a toccare, per cui ho dovuto mettere quell'isolatore passanti e ha risolto il problema. Ok, attenzione Sardegna, se ascolti Nord Italia, confine in Nord Italia. Cos'è il confine svizzero? Ok, Attenzione Grappa, buongiorno anche a te. Ciao, qua operatore Roberto, città di Sassari. Mi ascolti e poi ti rilancio gli amici, avanti. Ok, ti rilancio la torre di controllo, avanti Claudio Sparviero. Non so se voleva andare qualche un altro, boh. Vabbè, ciao Gamma, buonasera, qua Claudio Sparviero da Sassari. Non so se mi ascolti perché io sono sempre in condizioni precarie, avanti. Ottimo, ottimo, GP verticale, mi tipo quella che è tuo, Robert, tu ce l'hai dalla pick-up, quella è la GP6, deve essere della Diamond, poi me lo confermerai Gamma, ottima antenna, non è andata molto ma comunque a lunga distanza funziona. Ti mando avanti qua la Sassari Gianni, vai Gianni per Gamma. Gamma, dai, ciao Gamma, ben sentito, cordialità, la stazione Gianni W che ti super cordializza, la Sassari, avanti. Passino sei oggi in DX, 3-4 ti ha dato. Quanto ti ha dato a te, Cla? A me mi ha dato 9. La zona, sì. Anche a me 9. La Roma che sei in giro, ecco. Ok, riprendi Roberto. Sì, ciao, ti rilancio l'amico Riccardo, il più giovane della frequenza. Avanti Riccardo, per l'amico di... ho capito, Gamma, ma sono il grappa, così. Giondrio. Ah, ho preso, ma sono il grappa io. E vai Riccardo. Ciao Gamma, ben ascoltato, Alfa Ventura, questa parte, operatore Riccardo. Volevo sapere un controllo, tu mi stai arrivando Santiago 9, Radio 5. Roger, anche per te un pochino più vicino, comunque la propagazione è buona. Allora io vado da Sicilia, prendo d'Italia, dopo 30 anni ripeto. Ok, facciamo andare avanti Claudio, non mi ricordo se c'è ancora. Mi sa che la propagazione è scaduta. L'ho detto, la noce, lo scopo così lungo non è stabile, capito? Va e viene. Invece quando è corto si riesce, è molto più stabile. Vabbè, cosa hai detto già? Ho detto, sei bassino oggi in DX, come mai? Non lo so, nelle altre zone sono arrivato Santiago 8, Santiago 7, Santiago 8, qua invece la zona non è favorevole. Non so, va bene, dai. Comunque è importante arrivare. Non mi ricordo, va bene, riprendi Riccardo. Ok, un attimo di bianco per me che mi stanno chiamando da dentro. Visto che stai andando, porta quel cacchio di microfono, me lo fai sentire a me Roberto, aiuto. Sì, quel cacchio di microfono adesso lo porto. E buongiorno, me l'hai fatto sentire, ancora non me l'hai fatto sentire, vai Roberto. Come dici tu poi, non tocche quando è regolato. No, sono contento Riccardino, a parte che sta facendo sentire con pochi watt, riesce ad ascoltare bene, bei segnali, anche io 9 l'ascoltavo, 9 più 5 è questo, ottimo segnale, la ricezione funziona bene con l'antenna. Io sto ascoltando col Cobra, c'è una ricezione favolosa, non lo sto abusando molto. Ma ho fatto le comparazioni con i K e c'ha gli stessi segnali, veramente, cioè posso dare segnali precisi come li do col K anche col Cobra. Ieri proprio continuo facevamo delle prove e ho visto che come arrivava col K arrivava anche col Cobra, quindi sono contento perché è molto molto preciso. Vabbè, è nuova la radio, no? Usata pochissimo. Va bene, avanti Muros, a te cambio. Quella del 48 è vergine, ti ho detto, io l'ho usato se no 7-8 volte, poi era sempre dentro l'armadio, capito? L'ho solo fatto tirare un pochino la potenza da Gigi perché aveva 4 watt, quindi non avendo lineare quando facevo questi allocali l'ho portato a 8 watt, però è facilissimo riportarlo a 4. E basta, è tutto un originale, hai visto, c'è anche il microfono, la sua staffa, c'è anche il manuale, te lo devo salire, ma sono sempre incasinato in questi giorni, ma appena ho 2 minuti te lo porto. Però se usi un lineare a valvole non le fa niente, hai capito? Se invece usi un linearetto per dire che riceve 5 watt lo devi riportare a 4, ma quello salgo e te lo faccio io, tanto lo so come si fa. Avanti Gianni. No, lo conoscevate quello che è morto, che è caduto dalla scogliera, quello Salvatore d'Oro. Ma di dove? Di produttore? Ma non so di dove sia, ho letto che ho messo un colpo, ho detto cacchio, però non era quell'amico mio, c'era un amico che si chiamava Salvatore d'Oro, ho detto cavolo, è più grande. Salvatore d'Oro o Salvatore Moro? No, d'oro. Se di produttore io conosco un Salvatore d'Oro, poi vabbè. Ne conosco anche altri, ma se non vedo la foto non lo so. Non so se c'è il portatore, c'ha 49 anni comunque, c'ha vero anzi, poveraccio. Non lo so, io ne ho 60, quindi può darsi che magari da ragazzino sei di portatore, se no devo vedere la foto. Devo vedere la foto, a volte muoiono delle persone, io mi accorgo solo di conoscere dalla foto perché come nome non la conosco. Sì, Ricca, devi abbassare che stai fischiando. Stai fischiando? Non lo so se le connessioni sono giuste, non lo so. Abbassa leggermente il mic gain, abbassa i toni. Cosa è l'espander poi? Sì, ma sicuramente sta fischiando perché c'è l'adattatore, non so cosa hanno fatto. No, un cavo di Cosa? È un capo di prosa. Cos'è il ricavo? È un capo di prosa. Non va bene, attenzione a non rompere niente, è tutto un innesco. No, non stai uscendo bene, Erika, non è fatta bene la connessione, c'è qualche errore lì. Perché no, il mio non fischia, no, esce benissimo. Capito? Hai fatto qualche errore con la connessione. Perché le regolazioni te le ho date io. In pratica, ti ho detto mettilo a 6, a 7 e le, i toni a 4. Come lo usavo io, come lo uso io. Sì, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa sbagliata sulla connessione. Cosa sta vendendo questo, biciclette? Cos'è detto? Ha detto uno che sta vendendo biciclette. Me la vendi una bicicletta qua nel nord della Sardegna che andiamo in bicicletta? Chi è l'amico che chiama? Avanti, chi chiama la Sardegna? Stanno parlando tra di loro, ho detto li senti questi qua? Certo, fortissimo, ma pensavo stesse chiamando a noi. Ok, Riccardo, metti tutto giù, butta tutto giù il controllo di toni e il livello, mettilo al minimo il livello. No, ma quando innesca così c'è qualche problema sulla connessione, roba. Ma magari c'è qualche filo che sta toccando uno con l'altro, la massa sulla ricezione, sulla trasmissione, sicuramente. Infatti ti ho detto c'è qualche errore sulla connessione, qualcosa che sta toccando perché no, poi è plastificato quello, c'è una base molto molto solida, però è molto isolata rispetto ad altri microfoni, capito? Quindi no, non deve assolutamente fischiare. Avanti Gianni, riprendi nel frattempo, vai. E io me ne ero tanto a bere un bicchiere d'acqua perché c'è quella gola asciutta. Comunque ci sentono perché stavo parlando tra di loro e hanno detto sono da Sassari eccetera eccetera, quindi ci sento. Io ho sentito, e ha detto li senti questi qua, ha detto al suo amico. E noi sentiamo lo stesso e non è che siamo sordi. Claudio Damuros, avanti a te. Sì. KK, vediamo un po', Riccardino si è messo a posto il microfono, Ricca, lo starà controllando Sergio, dai. No, c'è qualcosa che sta toccando lì, Robè, sicuramente, se no con quella radio devi uscire bene, soprattutto con quella radio lì esce bene, perché io sul Polmar, sull'Airbex, ma anche qua sul Cobra, su tutte le radio che io esce una canonata, quindi sicuramente ho fatto qualche errore di connessione. Riprendi, Robè. Sì, è successo così sicuramente. E contavo che quando fai poi gli adattatori magari sbagli qualcosa, tocca qualcosa, le cose volanti non è che vanno bene. Aspetta, sei rientrato Riccardino. Riccardo, ci sei? Sto provando. Tutto frusci? Aspetta, metti tutto giù per curiosità, tutto giù e tieni sollevato per appena nel bicchiere, un peluzzino. Poi ma poi un attimino, Luca. No, non stai uscendo adesso, Luca. Tiralo appena appena più su. Ancora. No, ma c'è qualche errore nella connessione. Dai, avete sbagliato la connessione lì, Luca. Non può essere che non esca, capito? È impossibile. Vedi un po', mettete bene le connessioni. Copia bene dal connettore del microfono originale e copia le stesse connessioni. Se no non va bene. Ciao Luca, buonasera. Ciao Cla, ciao Roberto, mi è appena rientrato la compugna. Sei entrato da dove? Compugna. Le zucchine, fiori di zucca, ricatemi. Guarda, la prossima settimana sono buone già. Sto scherzando, dai. Ho visto che ci sono anche i fiori, a me piacciono un bel fritto impanati quelli, mamma mia. Sì, a te solo, pure a me. Oh Lu, l'hai letto il messaggio che ti ho mandato del telefono di Laria? No, aspetta. Dai, leggilo, c'è un primo messaggio, poi alla fine senti cosa il telefono di Laria è andato in affanculo. Se si può riparare, ha detto, diglielo subito adesso però, perché domani mattina va se lo compra nuovo. Vedi vedere che modello è, Cla. Vedi vedere il modello, io l'ho sistemato alla figlia di Roberto te lo può confermare. Sì, questo è muto completamente, è caduto per terra e sono partiti i cristalli liquidi. Non si sente, non riceve niente, non squilla, tutto al buio, capito? Non mi ricordo, c'era un anno, adesso gli dico che telefono è. Fammi sapere che telefono è e poi ti dico, riparare si può riparare. Dove sapere che telefono è comunque, va bene, quando vuoi. E ti dico quanto è la spesa. E ha detto che è un A7. A7 di che anno? Sarà del 2018, 2018. Ok, aspetta. Ah, io Riccardi, fai bene queste connessioni a zio Claudio, o te le devo fare io? Vieni, fermo un attimo. Riccardo, non stai uscendo. Non sto uscendo? Adesso sì. Ah, ok, e come vado? Benissimo, non stai fischiando né niente. A quanto ce l'hai? Che cosa? Il microfono. Ma la distanza? No, hai visto, hai cambiato radio e va bene. Forse in quella radio non va bene. A quanto ce l'hai il potenziometro? Il mic gear, a quanto ce l'hai del microfono? Del microfono? Ce l'ho basso, a 4. Portalo a 5. Eccolo a 5. Mettilo a 6. Puntiamo alti, 6. E Tony a quanto ce li hai? Tony, io sono a 4. Lascialo a 4, portalo a 7. Adesso è a 7. Mettilo al massimo, mettilo su in alto. È al massimo. Il micchino della radio a quanto ce l'hai? Massimo. Diciamo che va bene, ma non è che spinga più di tanto, Non è che spinga più di tanto con quella radio. Però va bene, molto chiara la modulazione. Vabbè, Gianni. Eia. Guarda come senti a Riccardino. Prova Riccardi, fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Adesso vediamo come sto uscendo. Sono a un palmo dal microfono. No, allontanati. Allontanati dal microfono. Cos'è un palmo? Allontanati. 10 metri. E non spinge più in tanto, però la radio è molto chiara. È bella la radio. Eia, va bene. È abbastanza presente, dai. Come lo senti tu già? Che qua mi stanno ammazzando a casa. La sento abbastanza presente, Claudio. La radio chiara, presente. Non è fortissima come quella che dovrebbe essere un tunnel, ma va molto bene, dai. Ma sicuramente la radio, perché secondo dove lo metti, quello lì, io sul Cobra spinge come questo, ad esempio, capito? Va molto bene. Con un'altra radio spinge meno, dipende. Comunque è abbastanza presente, Ricca, va bene. Claro, è anche la voce, dai. Claro, guarda WhatsApp. Ehi, aspetta che guardo WhatsApp. Riprendi, Claudio. Gianni. Ehi, faccia avvento un attimo, corri. Sono rientrato, sono andato di... c'è qualcuno o c'è ancora qualche... sono andati via? No, c'è qualcuno, stanno guardando un sacco, vabbè, come sto andando? Adesso sto usando un altro microfono, sai quale? Attenzione, canale 10. Sai che stavano parlando sopra, forse è Barracuda, chi è avanti? C'è che chiama? Oh, ma questa cos'è? È una portante, roba, ascolta. C'è un segnale nuovo e fisso qua, e poi uno che parla. Uff, mamma mia, come sto. Guarda come senti a Riccardo. Oh, roba, se la modulazione va bene. Non spinge molto, però, è con quella radio. Faccio un attimo di corsa greca, scusate un attimo. Vai, Riccardo. Ok, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Adesso vediamo come vado. Sono a 50 centimetri dal microfono. Ma che microfono è questo? Lo sai qual è il microfono, non farmelo nominare. Espande. Vabbè, io mi sono allontanato, non lo sapevo, pensavo fosse un altro microfono. È un po' di troppi acuti c'hai. Ma i toni sono a 4 e il volume al massimo. Prova a passare appena i toni. Ecco. Adesso sono a 2 i toni. Però un passaggio più lungo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Adesso i toni sono a 2. Sto usando come apparato un baracchino Tornado 34S. Aspetta che non ho visto i livelli. Guarda, prova a parlare un attimino, non ho visto se il livello è troppo alto o basso. Riprovo. 1, 2, 3, prova. Ah, già, torno bene. Vediamo come sto uscendo. Sto usando un microfono Turner e una radio Impact Tornado 34S. No, sei troppo saturo adesso, dovresti abbassare un pochettino. Ma cosa abbassi roba che non è a radio, cazzo? Non lo fare abbassare, no? Tira sugli A4, acuti, tirami sugli acuti, lascia stare quello strumento, vabbè, tira sugli acuti, rimettilo a 5, metti a 5, i toni. Ok, i toni adesso sono a 5. Oh, lascialo stare così, cosa fa passare Robè che non ha radio, vedi che non sta spingendo, cosa è troppo saturo, ma cosa si intende, lascialo stare così, lasciali a 5 i toni. Prova a parlare di nuovo, metti, ma quando arriva da 0 a 5 fa quello lì col microfono? No, fa da 0 a 10. Prova tutto al massimo, fammi il passaggio da 0, dimmi questo è 0 e poi mi metti 10 e poi 5. Ok, adesso i toni sono a 0 e adesso te lo metto a 10, aspetta. Adesso i toni sono a 10. No, 10 non va bene, mettilo a metà, vedere. Adesso i toni sono a 5. Così devo rimanere a 5, basta. Aspetta, fallo parlare, parla Riccardo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio, adesso i toni sono a 5. E il volume è al massimo di tutti e due, sia del baracchino che del microfono? Sì, al massimo. Non parlare, manda solo portante. No, però rimane un paio di secondi, Riccardo, non ho fatto in tempo, avanti. Cazzo, sembra che c'è una fabbricatessa, non è buco di vento le ventoline, dai, già va bene, dai, già comprensibile la radio, è buona, dai. Ehi, sì, è la ventola dell'alimentatore, aspetta che provo, no, a spegnerlo no, perché lo sta alimentando questo alimentatore. Ma che distanza sono dal microfono, Riccardo? Sono 50 centimetri dal microfono. 50, prova a avvicinarti un pochettino di più al microfono. Adesso sono più o meno a 20 centimetri. È un po' cosa, ricadiate questa modulazione, dai. Ma già è comprensibile, già va bene. Già ti fai ascoltare. Pensavo spingersi un po' di più però la radio. Ma non spingi con quella radio, ci vuole una radio tipo questa, qualche altro baracchino. Se fa bene le connessioni all'alcolt, esce molto meglio. Gli acuti c'ha, il tarne c'hanno tutti gli acuti, Robè, non lo sai. Cazzo, mi hai fatto mettere la resistenza all'interno del più 2, sono così. Va bene, poi troverai il modo di sistemarlo un po' meglio, con calma. Ok, c'era qualcuno che chiamava, avanti, chi chiama Sassari? Sì, buonasera a Padova, qua città di Sassari, operatore Roberto, in compagnia poi di Riccardo e di Claudio Sparviero. Claudio che aveva ruggerito. Avanti di nuovo l'amico di Padova, se mi dai anche il tuo nome per cortesia. Ok Torino, ti ascolto un attimo, c'è l'amico di Padova, se no ho capito male. Simone di Padova, però c'è molto USB uno sopra l'altro, sono vabbè. È una propagazione un po' così, non è che ti ascolto a momenti sei 9, poi scendi 7, poi c'è l'altro ti passa su. Non so se mi stai copiando Simone, ti rilancio di nuovo. Proviamo anche Torino, io non lo sento, scusate se l'ho sovramodulato. Va bene, dai, è un po' così, mi dispiace l'amico Simone di Coso, di Padova. Vediamo Claudio Chioda Ruginito se c'è ancora la muro, so, va. Sì, io vi chiedo un attimo di quel Rix, dai, salutando il centro nord e sud Italia, qua da Sassari, Claudio Sparviero, che vi saluta a tutti. Rimango un attimo in stand-by perché sto facendo dei lavori al telefono. Ok, Riccardo, ti mando un audio, rispondimi all'audio, ok? Ehi, già ti rispondo, Cla. Per me va bene così, lascia la 5 con i toni al massimo, con quella radio. Poi se riesci a fare bene le connessioni sull'altra radio, su quella che stavate provando eccetera, allora secondo me spingi ancora di più, però così lo devi tenere a 5 e il livello al massimo. Tieni conto che io lo tenevo a 7 il livello e i toni a 4, quindi più o meno siamo lì, però la mia modulazione, la mia voce non è uguale alla tua, la tua è molto più bassa come timbrica e quindi spinge di meno. Se io lo provo io sicuramente spinge molto di più, questo è un dato di fatto. Ehi, va bene, voi cosa dite? Secondo voi non mi cambia niente, torno al Colt con l'MB più 5 o lascio il Turner con l'Expander? A me piace più questa del più 5, poi non lo so, chiedi a Roberto. Questa che radio è, Riccardo? Tornado 34S. L'altra invece era il Colt, così era? Sì, Colt con MB più 5. Io sono sicuro, se ci metti questa ottana in quella dove c'è l'MB più 5 sicuramente diventa molto ma molto meglio. Questa spinge, però è troppo ricca di acuti e non è proprio adattissima, bisogna fare qualche piccola modifica per farla rendere un po' di più come ha fatto Claudio, metterci una risvenzina, probabilmente c'è problema di impedenza, ma è chiara, 5 la radio, niente da dire, dai. Ok, vediamo nuovo Muros, se c'è ancora, di nuovo Claudio, riprenditi il mic. Non ho capito Claudio, mi sono perso. Vabbè, fai un attimo la ponte perché poi se non lo risento gli rompo le scatole. Fammi tu la ponte. Ma non vi sentite, fino a poco fa vi sentivate tutti e due, siete furti tutti e due, è strano. E ha detto che ha fatto la ponte io, e ti ripeto quello che ha detto Claudio Lamuro, si può ottimizzare con la radio, ma secondo me, visto che c'è un apparecchio base, Rica, che esce bene, tranquillamente con un MBP5, adattatela col Colt, c'è una radio stupenda, perché quel tunnel è una bestia di microfono, se tu gliela dati all'altro apparato esce alla grande, sicuramente non ci sarà confronto con MPP5, comunque è buona la radio, niente da dire, un pochettino ricca di acuti, per il resto va più che bene. Sì, ho capito. Allora, adesso vediamo un pochettino gli amici furi dall'Alta Italia, attenzione chi copia la città di Sassari, Nord Sardegna, avanti gli amici su del Nord Italia. Brecco Nord Sardegna, avanti chi ascolta la Sardegna. Sì, ti ascolto, non ho capito la località e il tuo nominativo, avanti se vuoi ripetere. Mi dispiace, sei in mezzo ad altre modulazioni, ho sentito un pezzo del passaggio, se vuoi ripetere, perché purtroppo oggi la propagazione è troppo lunga, lo skip per cui ci sono uno sopra l'altro e le interferenze. Avanti di nuovo se mi confermi il passaggio mio, avanti. Sì, Udine, ho capito il passaggio, purtroppo qua ti scavato, la salti a vuoto, sei radio a momenti 5-4-5, però purtroppo ci sono segnali molto più forti di te e ti sovramodulano. Ok, mi dai un rapporto anche a me eventualmente, vediamo un po', dai. Riccardino, che microfono stai usando adesso? Adesso l'MB più 5 sono passato perché mi si è tolto il cavo di prova e non mi ricordavo, stavo perdendo tempo. Vabbè, quando è così volante, vuole fatto bene quello. Comunque sappi che esci molto bene, va bene? A dopo signori, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Okay. A ciao Claudio, ci sentiamo. Avanti Claudio Muros. Amico di Udine. Ok, ciao Claudio, a più tardi. Volevo sapere se l'amico di Udine mi ascolta. Riccardo ti sta chiamando. Mi fa piacere ascoltarti. Noi abbiamo abitato a Palmanova, lì vicino a voi. Ok, sì, anche tu mi stai arrivando, tu mi stai arrivando forte, un Santiago di 7 e una radio di 5. Purtroppo ci sono tante sovrammodulazioni, ma ti ascolto abbastanza bene. A momenti li perdo. Da dove moduli? Sezione Udine, no Riccardo, siamo tutti qua in zona di Sassari, a parte l'altro amico Claudio che lui è qua a pochi chilometri, 10 chilometri, non ho capito il tuo nome però Udine, avanti. Mi dispiace però, ti sento a tratti perché c'è molto QSB, poi tra l'altro ci sono sovrapposizioni di segnali, mi dispiace, oggi è una propagazione un po' lunga, troppo lunga, per cui c'è tutta l'Italia che si sta prendendo, tutta il Nord Italia, su da Montegrappa sino a giù, riusciamo a beccare tutti, Padova, Vicenza, abbiamo fatto un po' tutto, anche Bari, purtroppo probabilmente c'è qualcuno un po' più potente di te, ti scavalca, non so se mi hai copiato, non vuoi ripetere il tuo nome, non ho capito se c'è modo di dirlo. Paolo. Mi dispiace Paolo, comunque qualche passaggetto ti ha ascoltato, adesso purtroppo ti sto perdendo, comunque dai, è stato un piacere ascoltarti anche se per breve tempo, avremo modo magari se capita di sentirci in situazioni un po' più favorevoli. Avanti di nuovo Riccardino che poi dà il mic a Claudio Lamuros, avanti Riccardo per i saluti, ciao ciao Paolo. Ok Paolo, mi ha fatto piacere ascoltarti, quando finisce questa cosa del coronavirus passiamo alle tue parti, che ho fatto l'infanzia lì, abbiamo abitato per 5 anni lì a Palmanova e e ti saluto, 73 più 51 avanti a te, che poi passerà per Claudio D'Amuros. Ok, riprendi il mic, Claudio, no, purtroppo la popolazione sta andando via, dai, se no non capiamo più niente. Ieri qualcuno l'ha vista la stazione spaziale di voi? Riccardo, come mai sei stato 5 anni a Coso, vicino a Udine? Mamma ha vinto il concorso lì da veterinario e così ci siamo trasferiti tutti lì per 5 anni. Quindi hai fatto le scuole anche? Sì, ho fatto la scuola lì. Perché a Udine c'è freschetto di lì, c'è anche un po' di venticello, dai. Sì, la mattina d'inverno c'erano le salatizie nel garage. Ok, dai, sono sempre esperienze, dai, ma la Sardegna è unica, dai. Vabbè, lo so che è bella Sardegna, però anche lì era molto bello. Non per dire, ci sarei rimasto. Ci sarete rimasto? Io ci sarei rimasto. Addirittura? Sì, era bello, è diverso, come dire, un po' la mentalità e le altre cose. Sì, però anche la Sardegna è molto bella. Vabbè, c'è da dire, di lì avevi tutti gli amici, ti hai fatto tutta l'infanzia, dai, qua gli amici te li devi tutti ricostruire, dai. Ok, aspetta, c'è qualcuno che chiama, avanti che chiama la Sardegna. Vabbè, dai, riprendi tu Claudio. Ciao Claudio, sempre piacere sentirti. Ho dato il numero di cosa? Di tuo babbo, perché il tuo non me lo sono ritrovato. E per Natalino voleva avere qualche informazione a riguardo di quelle che avete, ti chiamerà tramite. Non so se vi ha chiamato, il numero di casa. Vai Ricca. Mi hai ascoltato, alle prossime, è sempre un piacere ascoltarti. Ricca, questo è il Colt? Sì, è il Colt con l'MB più 5. I toni ce l'hai tutti chiusi? I toni sono a 2,5. L'altro giorno era a 0, come li ha sollevati? Mi ha detto Claudio che la voce era metallica, con i toni a 0. La posizione migliore, anche adesso stai uscendo bene, il volume com'è? Il volume è il mic gain del microfono. Il microfono e il mic gain? Il mic gain del microfono è a 9. Ok, fai una prova a chiudere i toni, mettili di nuovo a 0 e poi me li rimetti a 2, veloci i passaggi. Sì, ok, adesso sono a 0 e adesso a 2,5. Aspetta, fai un passaggio più lungo, fai un passaggio un po' più lungo a 0 e poi mi dici adesso li metto a 2. Adesso i toni sono a 0 e adesso li metto a 2. Adesso i toni sono a 2,5. A me piace più a 0, comunque sono buone tutti e due, perché a 2 ti dà un pochettino un po' di acuti, un po' più squillante la voce, però a 2, a 0 è più naturale, comunque va bene lo stesso, dai, uno all'altro c'è poca differenza. Ok, vediamo un attimo se qualcuno nel 10 vuole rientrare, avanti, o qualche propagazione da lontano che vuole sentire qua l'isola della Sardegna, avanti su 10. Vabbè, scusa un attimo, ma come fai a dire che il livello è uguale? Quando a 0 è cuppa da morire, a 2 è la tonalità giusta, ma io non so con cosa stai controllando tu, cosa stai ricevendo, Io non ho detto che cuppa, è un po' più squillante con gli acuti, però gli dà un pochettino di sovramodulazione degli acuti, diciamo un po' troppo esaltati gli acuti, mi piace più quella più neutra, quella a zero è più neutra come modulazione, ma vanno bene tutti e due, non ho detto che è una cagata, vanno bene tutti e due, per i miei gusti è meglio la cosa chiusa, gli acuti chiusi. Per i miei gusti no, perché con gli acuti chiusi, con i toni a zero è cuppa la modulazione, vabbè, non c'hai orecchio tu, A te ti aiuta solo lo strumento, lascialo stare a due c'ha gli acuti e i medio bassi giustissimi per la sua modulazione, se tu lo chiudi è cuppa, non c'ha niente quel microfono. Io non ho detto che c'ha niente, però sto dicendo per i miei gusti va meglio a zero, poi a te ti piacciono più esaltati gli acuti, è presente che a una certa età, non voglio dirti nulla, perdiamo un po' di tonalità acute, più sali di età e più l'orecchio umano perde un po' di acuti. Ne conosco un bel di gente, c'è un cliente officina, quando io gli faccio la regolazione in macchina, mettimi tutto a manetta, tocca come ce ne sono truppi, no, io non li sento bene gli acuti. Vabbè, ma questo è un problema tuo, non mio, io gli acuti li sento ancora bene. C'ho l'audio, ce l'ho molto molto in forma ancora, magari in forma c'ho meno altre cose, però gli acuti grazie a Dio sento molto bene. A me piace, ma non a me, va bene più con la tonalità 2, più o meno tutti gli MB più 5, la tonalità va da 2 a 3 a 4, dipende, ma a 0 io non li ho mai sentito, a 0 fanno schifo, quindi per me va bene a 2, per me va bene a 2, è regolatissima. Io ho ascoltato anche con l'HF stringendo e allargando i filtri e va molto molto bene a 2, Riccardo. caso io stavo parlando di piccolezze, mi non ho detto che va male, ho detto va benissimo tutti e due, è solo questione di gusti. Ma qua non si tratta di questione di gusti, se a te ti piace la caramella alla menta, a me mi piace la caramella al limone, è questione di gusti, ma qua non si tratta di gusti, qua si tratta di regolare bene un microfono e dire sì va bene a due oppure no va bene a zero, non è questione di gusti, un microfono non si regola a gusti, ricordiamoci, togliamoci dalla testa, si regola perché deve essere regolato bene per tutti, non per te va bene a 0, per quello va bene a 2, per quello va bene a 4, perché troppe volte stiamo sbagliando con queste cose. Un microfono va regolato per tutti bene, non per i tuoi gusti o per i miei gusti, capito Robert? Vabbè, non stiamo a polemizzare, ti ripeto che io secondo me lui c'ha troppi acuti, poi io faccio la voce naturale, lui conoscendo la voce su naturale con quegli acuti lì esalta un po' troppo gli acuti, perché la voce già l'hai conosciuta anche tu di Riccardino, un pochettino troppo acuta gliela dà, un pochettino, gliela esalta un pochettino, però è perfetta, va bene lo stesso. Poi io ripeto, io cerco di ascoltare la naturalezza della voce, non di spingere di più, l'ho sempre detto. Quindi è un tuo problema, è un tuo piacere, è un tuo desiderio fare queste cose, ma chi deve uscire con i microfoni preamplificati ha bisogno di tonalità, la tonalità si dà con gli acuti e con i bassi, ok, non te lo devo insegnare io, quindi un microfono se hai medio alti e medio bassi regolati bene, per me è regolato bene, se poi mancano i medio alti per me non è regolato bene, quindi Riccardo per la modulazione che ha è giusto che abbia un po' di acuti, che abbia un po' di medio alti, altrimenti la modulazione io la sento troppo bassa, mancano a solo bassi, non sento gli acuti, capito? Ok, dai, vabbè, non è una polemica, per me è un discorso che faccio da sempre. Togliamoci alla testa che non è a piacere la regolazione di un microfono, ma deve essere giusta, ok? Vai Riccardo. Va bene, ho sentito un po' di preparazione, volevo sentire un attimo, vediamo se c'è qualcosa, se no continuiamo. Non so, a me questa propagazione mi sta solo prendendo mal di testa, non mi sta facendo assolutamente altro, quindi per me se volete continuare, continuate, io rimango in QRX, ok? Infatti anche a me non piace, quando c'è la propagazione così lunga lo skip è una cagata, senti di tutto di più e non riesci a fare un collegamento più di qualche secondo perché uno sopra l'altro, l'altro giorno invece era meglio, mi sono spostato un pochettino, c'erano quelli della Germania, tedeschi, ho fatto collegamenti molto lunghi perché e non c'erano sovrapposizioni. Vai Riccardo. Vado avanti io, non c'è rimasto nessuno. Non credo, eravamo noi tre, poi ci ho da ruggito, è andato via. Dimmi una cosa, siete già rientrati quindi dalla gentiera? Sì, alle due siamo rientrati, era mare mosso, non c'era niente da fare, era pieno di vento oggi e quindi siamo tornati perché più tardi abbiamo anche smontato la piscina che dobbiamo cambiare tutto. C'era un po' di tramontana, il vento era un po' di lì, tira un pochettino, si sente la tramontana, è un vento, uno dei venti predominanti di lì sotto. Di lì vicino avete visto il movimento che c'è stato di quel tipo che è caduto dal coso, hai visto? Sì, alla pedraia. C'ho già due, che succede? Questo ha 49 anni, poverino, dai. Ok, avete visto il movimento di elicotteri quindi? Sì, è passato l'elicottero. Va bene, e quindi non avete volato per niente voi? No, oggi questo fine settimana il volo non ce n'era, era vento storto. Dimmi una cosa, le batterie vi sono bastate? Sì, sono bastate, abbiamo fatto un bel roba, abbiamo collegato la TV, c'era il frigo, poi erano tutte le luci LED, e già è bastato. Adelante Spagna, vabbè lasciamo per lei. Stavo dicendo, col pannelli solari li mettete in ricarica le batterie? Sì. E hanno ottenuto la carica, siete riusciti a farle usare? Sì, siamo riusciti a fare un po' di roba. Ma se siete partiti voi il venerdì e siete tornati stasera, la domenica? Sì, alla stessa ora, siamo partiti alle 2 e siamo tornati alle 2. E c'era un bel di gente che li avete trovato? Sì, un bel di gente, soprattutto in spiaggia. No, camperisti qua. Ah, di camper, cos'erano 5 o 6, una cosa del genere. Quindi non eravate da soli, dai, almeno quello, perché è troppo sperduto quel posto, stare da soli, c'è troppa gente lì in giro. Comunque in spiaggia sì, ce n'era un bel, venivano, la maggior parte erano tutti con le canne a pesca o quelli che andavano a fare pesca subacquea, invece c'erano le condizioni. Controlli ce ne sono stati, non hanno detto niente a nessuno. Sono passati 3-4 volte i carabinieri e i baraccelli, invece che discutere hanno... si sono fatti una foto al mare, avevano nostalgia del mare. Ah, non dico, non hanno detto niente per il camper, perché erano di lì, che non si possono mettere. No, no, eravamo praticamente col tavolino aperto, finestre aperte, le sediette, patatine e altre cose, no, non hanno detto niente a nessuno, erano così. Meglio così, perché l'estate scorsa hanno fatto un po' di razzia, hanno messo un sacco di contravvenzioni, ma io dico, è un posto tranquillo, non è che ci vanno 1000 persone, per cui devono essere un pochettino più tolleranti, dai, e andare a controllare quelli che sporcano effettivamente le spiagge e le pinette, che ce ne sono tanti di maleducati. No, ma non ho detto niente. Comunque l'unica cosa è che ieri ci hanno ripreso al TG. Perché? Perché stavano parlando del turismo, che non c'era nessuno nei bar, e eravamo al bar e hanno fatto finta che eravamo turisti. Mi hanno intervistato? No, non hanno intervistato, hanno fatto un inquadro a noi. A che televisione era? TG Regione. Ah, meno male, quindi sei uscito in coso, in tutta l'Italia. L'Italia no, perché se TG Regione è praticamente solo la Sardegna. Vabbè, diciamo solo sulla Sardegna, ma la satellite lo vedono in tutta Europa. Se qualcuno ti conosce magari in qualche zona Europa, la rete aspetta anche via satellite, ci sono tutti i canali regionali e via satellite TG3, per cui qualcuno che ha il satellite, magari qualche emigrato, dice via Riccardino all'Argentina. A proposito, oggi mi hanno chiesto due quaselli in collegamento. Uno è andato, però l'altro, cioè, mi ha dato la sua mail, mi dice che è inesistente, ma come faccio? Non lo so, è scritto bene, stai attento, scrivi tutto in minuscolo, devi sempre scrivere tutto attaccato, rispettare le punteggiature, perché se scrivi per dire il tuo nome e lo scrivi in maiuscolo non funziona. Ho capito, ma non ho capito se era la mail oppure no, perché l'ho provato in tutti i due modi, perché me l'ha detto due volte le lettere, ha detto radio, alfa alfa, delta, ma secondo te era radio o me l'ha solo ripetuto? Io penso te l'abbia ripetuto, non lo so, ma tu chiedi sempre conferma, se c'è un brecco, avanti il brecco. Sì, buonasera, dai, Lecce, qua città di Sassari, in compagnia mia di Roberto e di Riccardino, il giovane della frequenza. Ti rilancia Riccardo e poi ci darai un rapporto di segnale e di radio. Avanti Riccardo per l'amico di Lecce. Ok Lecce, ben ascoltato, non ho capito il tuo QRZ, comunque ti saluto, qua arrivi più o meno bassino, però ti ricevo. Sì, avanti Lecce di nuovo. Il tuo nominativo però non ho capito, amico. No, purtroppo ci sono sovramodulazioni. Segnale 7-8, radio a momenti 5, però in certi momenti ti schiacciano con le modulazioni. Se vuoi ripeterlo, magari sperando che riesca a copiare. Nicola, l'hai copiato, non riesco a capire quello che avevi. No, negativo, non l'ho copiato neanche io, c'erano sovramodulazioni, c'era uno che diceva brecco, no, non si capisce niente. Scusa Lecce se non riusciamo a fare un QSO. Sì, avanti il brecco, chi chiama? Scusa, non ho capito la provincia, di dove? Bologna, così ha detto? Sì, Bologna ha detto. Giaguaro, ho capito. Purtroppo, come parla uno, c'è subito l'altro sopra. Attenzione se coppi qua a Sassari, Bologna, avanti. No, c'è troppo sovramodulazione, è inutile. Non si può fare un corso tranquillo perché siete uno sopra l'altro. Purtroppo, è così. Quando c'è lo skip troppo lungo, si copre uno con l'altro. Proviamo, aspetta, vediamo, ma tanto... sono sovramodulazioni. Ciao Giaguaro, ben ascoltato, alla provincia di Bologna, ci sono tante sovramodulazioni, ti sentiamo a tratti. No, negativo, non si capisce niente. Arriviamo fortissimo, ti rilancio amico di Bologna, Giaguaro, avanti se mi copri, uno sopra l'altro, ok dai, continua Riccardo, purtroppo sono uno sopra l'altro, mi dispiace per Bologna, per Lecce, dai, vi siete sovramodulati uno sull'altro, entrano decine di modulazioni, per cui non si riesce a fare un QSO lungo, sempre passaggi molto critici e brevi. Riccardo, tu ne hai fatto collegamenti all'Argentina? Argentina era Spagna. Hai ascoltato qualcuno la fax? No, all'inizio, poi quell'apparato diventa sordo, va bene per il questo perché quando con Sassari non si sente, scompare la modulazione, sentono solo la propagazione. Comunque sei riuscito a parlare con qualcuno, dai, è già qualcosa, la spagna di lì è tutta aperta. Sì, lo so, non c'è nessun ostacolo. Poi sei abbastanza in alto, qualche decina di metri dal livello del mare, il mare ti fa riflessione da specchio per cui spari parecchio. Lo so, abbiamo incontrato un amico che ha il baracchino, che non parla molto, ce l'ha così nel camper, avevo il drosmetro per misurare gli stazionari, stazionare al massimo, stazionare a 10. Tu? No, stazionare a 10 l'amico che aveva il camper, il nostro amico, che ha il baracchino anche. Ma probabilmente il piano di massa era in cortocircuito. Ci aveva attaccato alla scocca del camper. Ma la scocca, se è materiale non conduttivo, tipo la maggior parte di quelli nuovi sono in resina, bisogna mettere una parte metallica per forza. No, ma lui non lo usa mai alla fine, cioè, ho provato a fare canale 10, però ho fatto due passaggi, poi mi sono accorto, ho controllato a stazionare, a 10 ho lasciato perdere, sennò gli bruciavo i finali. Bastava pochi secondi, sei attento, ma il rientro ti scioglie i finali in pochi secondi. Lo so, infatti ho lasciato perdere subito. Zappa, vediamo un po', canale 10, chi vuole entrare avanti? La radio sta uscendo bene, no, poco fa ero un pochettino troppo compatto, probabilmente stavo saturando per quello. Ricca, ero commutato stamattina in FM, in FM spara parecchio questa radio, e la devi abbassare, non ho regolato bene, dai. Adesso credo che sta andando tutto bene, confermi? Sì, confermo. Ma te l'ha detto quella cosa Fabrizio? Cioè che cosa? Che doveva passare una cosa. Ma è 43? No, aspetta, come si chiama? ICR2 mi sembra. CR2, non ho capito di cosa stai parlando, ma una radio? Sì, è una radio. Ma è suo o di chi è questa radio? No, sì, è suo, mi ha detto che l'attacco al com'è che si chiama? Adesso non mi viene il nome, al discone. L'attacchi al disco. Ma dei ricevitori tu stai parlando? È un portatile. Ah, ho capito, ho capito. Ma perché voi c'avete anche il discone di lì? Non l'hai visto il discone. No, dove l'hai messo? Non l'ho visto. Il discone, quella che hai detto che ce l'hai anche tu un po' più elaborata. Forse non si chiama discone, me l'ha detto così Fabrizio che si chiama discone. Ah, quella smontata, quella antenna multibanda in ricezione. Sì, ho capito, sì, simile alla mia. La mia però leggermente diversa. Oh, regga! Quella, e gli devo attaccare gli altri radiali di sotto e la piazza. Regga! Oh! Io ho cambiato il radio. A quanto ce li hai tu lì? Adesso? Due e mezzo. Mettili a due. Adesso i toni sono a due. Lasciali a due, non si può dare i due, no? Che ero con il baracchino poco fa e aveva ragione Roberto, col K sei troppo alto di acuti, mettili a due, che vanno bene. Col K? Dimmi, ma cosa utilizzi dell'altoparlante col K tu? La sua colonnina, il suo altoparlante esterno, l'SP430 della Kenwood. Non il 9, non il 23, quello che ho io, l'SP23, vabbè io uso l'SP940, quello del 940. L'SP23 non è del 440, del 430, del 140, del 680, è del 450 l'SP23, cioè il frontalino nero quella, questa è tutta grigia. Sì, no, io sto dicendo, non lo utilizzo, quello lo utilizzo per la ICOM, per il ricevitore ICOM, l'SP23, io utilizzo l'SP940, quello della linea del 940, c'è una bella ricezione, c'è anche i filtri, quello. Sì, vabbè, ma 440 con l'LB inserito fa da filtri, già va bene, poi la mia c'è anche i filtri in AM, il mio 440 è completo di tutto quello che c'è è stato messo. Che ci voleva è stato messo. No, col baracchino ho notato differenza, c'era troppi acuti infatti. Hai ragione tu. Lascialo così a due, Recca, che va benissimo. Poi il 500 per me va bene, però non spinge molto. Non spinge molto, siamo a livelli di questo più o meno. Lì dovresti trovare una radio che spinga di più. Quando poi ti fai le connessioni tue per una radio diversa da quella, allora vedrai che spinge molto molto di più. Ok? Beh, ci sentiamo dopo che io devo uscire a fare delle commissioni, a più tardi se coincide. Ciao a tutti. Ehi, H, no, questa è la radio che piace a me, bellissima, fortissima, chiara e potente, questa è la migliore secondo me, insieme al 430. Vabbè, ma anche il Cobra esce bene col Tana più 3, non è male. Sì, no, niente da dire, sono tutte belle, però questa cacchiccia la radio, si sente la differenza, come spinge, è potentosa, diciamo, c'è tutti i tuni e cose, è naturale quella, la tua voce. Ehi, vabbè, questo K, io tutte e tre i K li porto a questo livello. È chiaro che il baracchino con i microfoni da tavolo che siano buoni, più 3, più 4, più 5, espandere, chi più ne ha più ne metta, sono sempre microfoni adattati ai baracchini, questi sono i microfoni suoi, lo sai meglio di me. Io dal 1987 che uso questo tipo di microfono, quindi il primo che ho preso era addirittura marcato Trio, non era neanche Kenwood, perciò conosco perfettamente la professionalità dell'MC60. Vai Ricca, cosa stavi dicendo? No, volevo chiedere a Roberto, il mio K non ha il, mi sembra, il filtro M, vero? Io devo mettergli, devo comprarne uno. Vuol dire filtro AM? E il K, hanno i filtri. No, vabbè, tu lo trasmetti in AM, perché deve avere il filtro AM? Non ho capito, che problemi c'è? No, perché non ho capito se è una cosa molto importante per modulare in 27 sul canale 10, bisogna, devo avere il filtro AM, visto che non ce l'ha dentro lui. Ma ce l'hanno, per quello che serve a te va benissimo, non devi toccare niente, se devi fare altre cose devi avere più stretto, più largo, eccetera eccetera, ma per la 27 va bene quello che c'è. Riccardi, i filtri del K sono tutti opzionali, tranne quello SSB, capito? Il resto sono tutti opzionali, io li ho messi tutte e tre, SSB, CW, AM e FM, tutte e quattro io ce li ho, però è opzionale, in più c'è la scheda Phoneme che ti dice la frequenza in inglese, capito? Il mio è completo, per farlo completo devi aggiungere tutti i filtri. Lo so, infatti l'ho visto, costava una cinquantina a filtro. No, costano molto di più, costano molto di più. Io, vabbè, anni fa, però adesso non mi ricordo, ma penso che proprio con Fabrizio stavamo parlando di questi filtri, mi sembra che costino un'ottantina di euro l'uno, una cosa del genere, boh. Non sai fa niente tra lui. Questo sito che li vendono a 50 l'uno. Ma cosa te ne fai? Cosa te ne fai? A cosa serve? Non serve a niente. Io perché lo uso diversamente da te. Io faccio anche HF con i Kenwood, anche se non le faccio mai, ma quando capita faccio HF. Ascolto in HF e la modulazione è molto bella. Però non lo so, vedi tu, Ricca. Se te lo vuoi completare te lo completi, se no lo lasci così come ce l'hai. No, era solo per chiedere com'era, se era una cosa che serviva. Boh, non lo sapevo, era solo un consiglio. No, te ne vai lungo, lascia stare, lascialo così com'è. Lo senti bene lo stesso e la trasmissione è quella che conta, non ti preoccupare. Quando tu riesci a uscire a questi livelli con un K sei da 10 e lode. Ok. Che conta è antenna, baracchino e microfono, poi tutte le altre cose sono degli optional per usi diversi, dai, a te riparate che tu ti cerchi un bel microfono che abbini bene e poi vedrai che uscirai come Claudio, magari la modulazione non sarà potente come la sua, però corposa sicuramente. O col 30 o col 40 o con tutti i K abbinato l'MC80, se ti ricordi me l'hai fatto staccare tu perché era troppo forte. L'MC80 è un bellissimo microfono, molto molto forte, anche a livello del 60 io li porto tutti uguali, però se uno ha la timbrica leggermente più bassa, il 60 non ha la regolazione microfonica, mentre l'80 c'è la regolazione microfonica, quindi è già regolato, perlomeno quello che c'ha Riccardo è già regolato così. Se tu lo abbini bene alla radio, che la radio funziona bene, le dai le misure giuste col mic gain della radio e il processore inserito, un bel. Claudio, il 60 sui veicolari 144, come li hai mai provati? Io ho il 60 sul Kenwood TM701, un MC60, funziona da Dio in FM, poi c'ho l'altro Kenwood, il TS780 e anche lì c'è l'MC60, funzionano benissimo in FM, non bene, voce naturale, bella forte. anche qui di 711 con l'MC60, vabbè. È il suo microfono, non c'è un po' di dubbio. E quello vecchiotto invece, quello che ho io, l'altro, il 700. Quello è l'attacco a 4, mi sembra, lì le puoi attaccare un MB più 5, un MB più 4, un Tane più 3, un Tane più 2, qualsiasi tipo di microfono. Infatti lo sto guardando, è a 4, non l'avevo manco visto perché c'ha il suo microfono originale, quello lì, per cui no, solo per saperlo, non ne ho mai provato. No, provati, testati, e ti dico che funziona bene anche il 700. Io ce l'avevo con un, adesso non mi ricordo, c'era un MB più 5 o più 4, non mi ricordo, però funzionava molto molto bene, sia in FM che in banda laterale, alla grande. Anzi, in banda laterale dovevo abbassare anche leggermente la preamplificazione microfonica perché era molto molto forte. Ok, stavo vendendo un Adonis 908 come quello che ho io senza il cavo. Se vuoi il cavo ci vogliono altri 30 euro, 50 euro, un radiamatore di fuori, nuovo. Magari. Come? Ma cos'è? Adonis è un bel microfono, quello che ti ho fatto vedere la fotografia che c'ha tutti i controlli eccetera eccetera. Puoi abbinare tre radio di tre marche diverse, suona più che bene, dai. Lo uso ogni tanto, lo uso anche io quello lì. Per 50 euro è regalato perché è nuovo fiammato. C'è uno che lo vende a Roma, ho visto. Non mi ricordo di dove, comunque quando capita io mi cerco un altro 60 che devo fare una modifica. No, non ne ho altri disponibili, robe 60 non ne ho perché uno l'ho venduto a Massi con la sua radio, capito, per cui c'era l'MB più 5 modificato da Fabrizio, e un 60 l'ho dato a lui, nuovo, e gli altri 3 ce li ho io. L'80 non ce l'ho più e quindi non ti posso aiutare, se no io mi avrei tenuto l'80 e ti avrei dato il 60 anche a usarlo, non c'è problema, ma ce li ho tutti attaccati alle radio, che lo sta vendendo il 60, ho visto qualcosa su Facebook, mi sembra che sia Luca, Luca Flipper qualcosa ci aveva di 60, non ricordo adesso, 70 euro. Luca Flipper sta vendendo un coso, un Cobra 200 euro, Cobra 100 watt. Ma non come il mio però, il mio è la versione 200 watt, quello è 100 watt. Quello c'ha 50 watt in AM, FM e 100 watt in SSB. Il mio ne ha 100 AM, FM e 200 in SSB. Non ce l'ha nessuno quello che io ti ho detto. Ce l'ho io e Massimiliano, e buh. Ma quindi ce l'ha anche Massimiliano, uguale al tuo. Preciso, identico al mio, me l'ha fatto prendere lui da un suo amico. Il mio c'è lineare sotto la plancia che equivale più o meno a un B300, un B300 piatto, ok, sotto la plancia, tant'è vero che io non posso togliere la staffa perché è bilanciato con la plancia del lineare, se no la testa a terra, capito? No, ho già l'ho visto, una bestia, mi ha fatto, no, pensavo che fosse quello di Massimiliano, il tuo. No, Massimiliano c'è il suo, io c'ho il mio, quello sta vendendo Luca, dovrebbe essere la versione da 100 watt, stessa sigla, stesso costo, stessa radio, perché sono gemelli, però non ha lineare sotto la plancia quanto so io, se la versione a 100 watt non ce l'ha lineare sotto la plancia, e la versione è come il Magnum, 100 watt, che poi 100 non li dà, perché in banda laterale non li dà, capito? E neanche in AM era 50, era intorno ai 45, una cosa del genere. Questo da 120 watt modulati in AM